che ciò viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chi mi ascolta lo sa bene, io non ho un particolare feticismo per il libro. Sì, i libri hanno un immenso valore, sono un grande supporto, un viatico indispensabile alla serenità, alla cultura, al sapere, ma non penso che sia meglio un buon libro di tante altre cose che vengono collocate in una sorta di demoniaca successione di oggetti che allontanerebbero l'umanità dal suo obiettivo principale, che è quello della trascendenza, della crescita, dell'accrescimento. Oggi comunque è la giornata mondiale del libro e dei diritti d'autore, quindi in qualche maniera prendo un cammino che mi porterà molto oltre, mi porterà verso la totale dissoluzione, che porterà questo programma il 14 e 15 maggio, ve lo annuncio, ad essere trasmesso alla Fiera Internazionale del Libro a Lingotto a Torino. Il grande salone del libro che ogni anno c'è a Torino, è un grande caos, pieno di libri, di autori, di persone che corrono. Ci sarà un angolino dove ci sarà Melog. E cosa faremo quel giorno? Quei due giorni, anzi. Quei giorni faremo degli esercizi di autoletteratura estemporanea. Cercherò di compiere una miracolosa quanto folle alchimia di trasformare la carne umana in letteratura. Prenderò all'istante un momento, un istante, un secondo della vostra vita quotidiana che mi racconterete al telefono, mi manderete alla segreteria telefonica, avremo tempo per parlare delle modalità e lo trasformeremo in letteratura, dimostrando che in fondo fra letteratura, fra mito, fra favola e attualità esiste un legame strettissimo. Non esiste nulla che gli uomini possano aver immaginato che non abbiano realmente vissuto sulla loro carne. Non esiste brandello di carne umana che non possa scendere al meraviglioso luogo del mito, della letteratura, del fantastico. Anche la vostra triste, grigia biografia, o perlomeno se voi la considerate tale, ha dei momenti fantastici degni di essere raccontati. E questo ve lo dimostreremo. Vediamo un esempio tratto dal quotidiano. Quando parlo di meraviglia non parlo soltanto di cose positive che aprono il cuore, che sono belle, rassicuranti, ma anche di terrificanti eventi che attraversano la nostra vita. Da un paio di giorni la stampa italiana parla della vicenda spaventosa e miserrima di tre bambini abbandonati da una coppia tedesca ad Aosta. E questa storia sembra assomigliare in maniera fantastica a qualcosa che fa parte della letteratura della nostra infanzia. C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano 7 figli, tutti maschi. Il maggiore aveva 12 anni, il più piccolo 6 e si chiamava Pollicino. Pollicino, e voi tutti figlioli, preparatevi! Andiamo nel bosco a fare legna. Dovete sapere che la sera prima il boscaiolo e sua moglie avevano deciso in gran segreto di abbandonare i figli nel bosco perché non sapevano più come sfamarli. Se ne sono andati abbandonando 3 bambini di 6 e 4 anni e il più piccolo di soli 8 mesi. Pollicino però, nascosto sotto una panca, aveva sentito i loro progetti. Domenica sera, dopo aver mangiato una pizza in un ristorante di Aosta, sono usciti dal locale con la scusa di fumare una sigaretta e sono scomparsi nel nulla. Come tardi! Il babbo e la mamma non verranno più! Si hanno perduti! Mamma! Papà! Aiuto! Venite con me, fratelli! Vedrete che riuscirò a riportarvi a casa! L'impressione era quella di due persone che fossero in difficoltà. Non avevano soldi, non avevano valigie oltre a quella borsa lì. Con 3 bambini. Man mano che la famiglia si addentrava nel bosco e che il bambino sbriciolava il suo pane, gli uccelli se lo mangiavano tutti contenti. Così, quella sera, i 7 fratellini non trovarono più la strada di casa e si smarrirono davvero nel bosco. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno. Molto velocemente, lei trova una sintonia tra realtà e accadimento e mito, favola, racconto dell'umanità? Ma certamente, il mito è inventato dal nostro cervello, il nostro cervello si muove nella storia. Il mito e la fiaba ci servono per poter mettere da qualche parte le cose che sono talmente atroci che noi non possiamo guardarle in faccia direttamente. nella prima dell'illuminismo. Sì, ma vorrei solo soffermarmi solo un secondo su questo episodio stretto. Avremo poi tutto il tempo per parlare nello specifico di quello che lei pensa e scrive. Silvana Emara, ricordo, è già stata nostra ospite, nasce come medico chirurgo, ma è l'autrice fantasy forse più tradotta nel mondo. Ha scritto vari libri su questo concetto a noi molto caro delle corrispondenze tra reale e immaginario, in particolare l'ultimo libro, Il drago come realtà, significati storici e metaforici della letteratura fantastica, Edizioni Salani. Ecco, Silvana Emara, soltanto su Pollicino, soltanto su questo piccolo episodio, poi manderemo degli estratti dal suo libro per introdurre il tema. Certo. Pollicino e Hansel e Gretel raccontano la verità storica del cannibalismo. Prima di crepare di fame, tutti mangiano i cadaveri. E dato che i bambini muoiono per primi, i bambini sono stati mangiati. In più, il bambino è particolarmente facile da riconvertire in cadavere. Un bambino costituito da chili e chili di ottime proteine non protette praticamente da nulla. Ecco, guardi, guardi quanto poi drammaticamente, in maniera forse macabra, una delle riletture più conosciute, perlomeno alle orecchie di noi italiani, della favola di Hansel e Gretel, abbia dei punti in comune, anche nell'assonanza del parlare, alla vicenda dei genitori austriaci che abbandonano i bambini. Un tempo in cui c'era una grande carestia, vivevano in una casetta ai margini del bosco un taglialegna, i suoi due bambini e una matrigna cattiva. Caro marito, bisogna ridurre le bocche da sfamare in questa casa, altrimenti moriremo di fame. Domani condurremo i tuoi due bambini nel folto della foresta con una scusa e li abbandoneremo. Moglie mia, come puoi dire a cuor leggero cose tanto tremende? Io non potrei mai commettere un simile misfatto. Non c'è bisogno di ammazzarli. Basterà lasciarli nel bosco e non sapranno più trovare la strada di casa. Almeno noi potremo tirare avanti. Silvana De Mari, nelle fiabe sonore che tutti abbiamo ascoltato in disco 45 giri, in musicassetta, adesso in CD, la madre di Hansel e Gretel, infatti, naturalmente, ha l'accento tedesco. Certo, anche perché dove sicuramente il cannibalismo c'è stato è stata la guerra dei 30 anni. Noi abbiamo un'idea di cosa può essere stata la guerra dei 30 anni leggendo quel magnifico romanzo che sono i Promessi Sposi. Adesso, se noi prendiamo la fame, la peste e il disastro di Milano e li moltiplichiamo per 1000, quella è stata la guerra dei 30 anni in Germania. Lo schema della guerra dei 30 anni è stato tutti contro tutti. Dopo i primi anni non c'erano più raccolti. Alla fine della guerra dei 30 anni è stato calcolato che un tedesco su 2 sia morto e che il sopravvissuto non può che essere sopravvissuto mangiando cadaveri. Devo dire, però, che gli attuali genitori tedeschi hanno lasciato i loro bimbi in un ristorante, quindi con l'idea che probabilmente qualcuno gli dà da mangiare, non che li riconvertano in cotolette. Dopo l'illuminismo, i genitori sono migliorati, perché la miseria è diminuita. Noi possiamo avere un'idea di che cosa sia un bambino che si muove nella miseria, vedendo quello straordinario film che è The Millionaire. Quando accecano il bambino versandogli negli occhi olio bollente perché da mendicante cieco guadagna di più, in un certo senso anche quello è una forma di cannibalismo. Beh, professoressa, è un dato di cronaca che abbiamo sotto gli occhi tutti, l'importazione nelle nostre città di persone deformi prese da orfanatrofi magari della Romania, che come proprio l'uomo che ride del famoso romanzo ottocentesco, vengono o deformati ad arte o presi da istituti dove c'erano poveri bambini abbandonati. Le strade di Roma sono piene di ragazzi con arti deformi, mutili, che camminano su carrozzine, quindi sembra quasi che questo filo ininterrotto di carne che si trasforma in romanzo anche in tragedia non ci possa abbandonare ma ci accompagni continuamente. Quindi qual è il nostro atteggiamento? Certo, ha perfettamente ragione. Il mio atteggiamento consiste nel fatto che il bambino, se non è protetto da papà e mamma, non vale nulla. La caratteristica fondamentale del bambino è l'impotenza. Quando Biancaneve scappa tra i 7 nani. I 7 nani sono la metafora di un mondo bambino, un mondo dove nessuno è più alto del bambino. Un bambino può essere preso, ucciso, Biancaneve, massacrato di lavoro, Cenerentola, scambiato per cibo, Laperonzolo, abusato sessualmente, Pelle d'asino. Un bambino può diventare cibo, Hansel e Gretel e Pollicino. Quando la realtà diventa ingovernabile, quando c'è la guerra, c'è la fame, la peste, anziché Necchi, quando vengono le labarbiere a trascinare le madri verso i roghi, quando i bambini vengono mangiati, quando ti mettono su un treno che ti porterà ad Auschwitz, il sogno dei bambini, tutti senza nessuna esclusione, è un mondo dove nessuno sia più alto di loro, un mondo dove nessuno possa far loro del male, un mondo dove la loro impotenza sia risolta. Anche perché, in effetti, in alcune fasi anche abbastanza recente alla nostra storia, i nani acondroplasici, cioè quelli che avevano le fattezze appunto ai 7 anni, venivano usati nelle miniere perché erano piccoli e entravano meglio nei cunicoli, come appunto venivano usati i bambini. Melog 2.0. Le fiabe più belle ci fanno compagnia, un cielo di stelle e di fantasia che non scorderemo mai. La fiaba è un posto protetto, reso tale dall'ambientazione fantastica e dal lieto fine. È un luogo dove diventa possibile sperimentare collera, paura e vergogna, senza il timore di venirne travolti, senza il rischio che da quelle stesse emozioni siano travolte le relazioni fondamentali della vita. Qualcosa in lui si trasformò, era sgarbato, un po' volgare, ora no. Nelle fiabe, noi abbiamo messo la paura più antica, più totale, più assoluta: non essere amati o non esserlo abbastanza. Guarda un po', che dir non so. 800240024, quello che state ascoltando sono degli estratti dal libro Il drago come realtà di Silvana De Mari, che è un libro che spiega i significati storici e metaforici della letteratura fantastica. Quanto nella letteratura ci ha accompagnato sin dalla tenera infanzia, in realtà corrisponde a una sorta di libro che ci ammaestra a vivere la vita, o perlomeno ci mette in guardia rispetto a quelli che sono i pericoli della vita. Non è vero che le favole servono a rassicurare. Le favole, secondo l'autrice Silvana De Mari, sono dei luoghi fatati in cui possiamo ritrovare il luogo di elaborazione di molte nostre paure. I bambini delle fiabe sono orfani perché nessuno è meno amato dell'orfano. Coloro che avrebbero dovuto amarli sono morti e la condizione dell'orfano è la metafora della mancanza dell'amore parentale. Oggi voglio fare una puntata diversa dal solito e raccontare due favole. Davvero, Sana? Questa sì che è una novità. La matrigna è la rappresentazione di una realtà storica precisa, di un pericolo reale in epoche passate sempre in agguato. Quello di restare orfani di una madre uccisa dal parto, in balia di una matrigna che avrebbe diviso in maniera disuguale tra i figli di primo e secondo letto il poco cibo, le molte botte e le infinite ore di lavoro massacrante. Presto, Cenerentola! Stirami l'abito di velluto rosso ricamato appunto d'Inghilterra! Cenerentola, lascia stare quei piatti e lustra per bene il mio diadema di brillanti! Ma la matrigna è soprattutto il fantasma universalmente fruibile di una mamma che ama poco o meno di quanto vorremmo. Ci saremo chiesti tante volte perché le favole che ci hanno raccontato da bambini siano piene di matrigne, siano piene di genitori che abbandonano i figli, siano piene di orfanelli, siano piene di streghe che si mangiano i bambini. Un motivo c'è, lo sentiremo fra un istante. Zampa di serpe, occhio di talpa, coda di rospo tagliata così. Ecco una mela di quelle belle, ora la immergo ma solo a metà. E Biancaneve qui non si scappa, la mangerà e morirà. Nelle fiabe c'è anche la strega. La strega è il fantasma di mamma quando mamma è cattiva, o quello della matrigna che era più facilmente cattiva. La strega è anche il fantasma della terrorizzante femminilità che avanza anno dopo anno, ormone dopo ormone, per rubare il corpo infantile della bambina, e che lei voglia o no, gliene darà un altro, dove l'innocenza sarà negata. Ma io volevo solo offrirti questa mela. Guarda com'è bella. Hai paura? La strega è il corpo di quella stessa bambina, figlia, figliastra, nipote, vicina di casa, che improvvisamente, giorno dopo giorno, ormone dopo ormone, perde la sua innocenza e diventa un'ossessione che travolge il sonno e i sogni. La strega è lei, la donna, la femmina, Eva, Lily, l'essere inferiore e demoniaco che strega con il suo odore, con gli occhi, con i capelli che scappano da sotto la cuffia, che distrae dalla preghiera. Questa maledetta donna, che catastrofe dopo catastrofe, guerra dopo guerra, continua a sedurre gli uomini e a partorirne i figli, così che il dolore e il peccato non possano estinguersi mai. Silvana De Mari, le parole che abbiamo fatto leggere sono tratte dal suo libro. Hanno avuto un strano, singolare e misterioso effetto sul nostro pubblico. Hanno agghiacciato le persone. Normalmente chiamano molte persone, normalmente il pubblico è sollecitato da noi, ma ben volentieri partecipa, porta la sua esperienza. Questa mattina, che ho provato soltanto ad accennare il fatto che tutti gli orrori delle favole fanno parte della nostra carne, questo ha bloccato, paralizzato le persone che dovrebbero telefonarci. Come mai, secondo lei? Perché parliamo del dolore, il dolore che tutti abbiamo dentro di non essere amati. Anche se un genitore ci riempie di cibo, anche se un genitore ci riempie di soldi, anche se non siamo più abbandonati in un bosco, noi abbiamo sempre la paura di non essere amati. L'essere umano viene al mondo con un'unica competenza, un pianto disperato, che attira l'attenzione di qualcuno che lo nutrirà. Quando noi abbiamo fame, abbiamo due informazioni nella nostra mente: non sono stato abbastanza nutrito, non sono stato abbastanza amato. A che cosa ci serve lo sguardo di papà e mamma? Lo sguardo di papà e mamma, per questo l'amore di papà e mamma non basta mai, ci serve a formare il nostro io. Se piaci a mamma, piaci a te stesso e piaci alla vita. Se non piaceri a mamma, non piacerai mai a nessuno. Se tutte le volte che mio papà e la mia mamma mi incontravano per caso, magari tutte le volte no, poveracci, avevano anche avuto da fare, ma qualche volta dicevano: che carina questa bimba, ma guarda che fortuna abbiamo avuto, io per tutta la vita avrò uno io forte, io dirò io sono. Ma se papà e mamma, incontrandomi per casa, dicevano: che schifo questo scarafaggio, ma quanto siamo stati disgraziati, proprio a noi doveva nascere, io avrò il mio rattrappito, io farò una fatica terribile per riuscire a capire chi sono e cosa ci faccio nel mondo. E questa informazione è così banale, i bambini nascono avendo nel cranio stampati a lettere di fuoco l'informazione che papà e mamma li debbono amare. Essa è arrivata alla luce della scienza soltanto nel secondo dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, con i lavori di Bowlby, perché fino a quel momento il dolore dei bambini non amati non potevamo guardarlo, dovevamo sopravvivere, come devono sopravvivere i bambini di De Millionaire, come devono sopravvivere i Niños de Ruas di San Paolo del Brasile o di Città del Messico o di Bucarest. Solamente da 60 anni noi ci siamo resi conto del dolore del bambino non amato, e questo dolore era stato messo nelle fiabe. Adesso però io la porterò, Silvana Mari, a dire cose ancora più atroci. Forse lei non immagina che la parte più atroce del suo libro è a pagina 64. Ora, tutti siamo culturalmente e politicamente corretti, propensi a dire: i bambini vanno curati, seguiti, amati, assecondati. Su questo siamo tutti felici. Ma la parte più dolorosa del suo libro non è questa. È quella quando lei dice: i nostri figli devono batterci. Noi non dobbiamo competere sessualmente con i nostri figli. Un ragazzo di 16 anni ha diritto di avere in casa un padre che assomiglia a un cinquantenne, che non sia troppo palestrato, troppo abbronzato, troppo vincente, più bello del rame. Un padre e una madre che abbiano un po' di rughe e un po' di pancia sono più rassicuranti. Beh, chi è che si rassegna a diventare vecchio per permettere ai figli di avere il loro spazio? La vecchiaia è un dono. La vecchiaia è una cosa meravigliosa. Eh sì, è stata facile. Chiesta da Abramo. Abramo ha chiesto a Dio: come fanno i miei figli a sapere che io sono l'anziano, quello che li può proteggere? E Dio gli ha regalato i capelli bianchi e le rughe. Eh sì, però non è che tutti ci sentiamo di fare la stessa richiesta di Abramo, onestamente. Bella il riferimento comunque biblico, mitologico, favolistico o tratto da libri sacri. Ma chi oggi, uomo moderno, che vive la contemporaneità, che ha dei figli a cui vuole bene, che ama, per cui vorrebbe la felicità, metterebbe a fronte di questa felicità la presa di posizione e di coscienza del proprio decadimento? Il decadimento è la cosa peggiore, è il peggior peccato per l'uomo moderno. Non concordo col fatto che si dice invecchiato male, come se fosse una colpa terribile. Una persona che mostra i segni della vecchiaia non fa nulla per fermarla. Il decadimento è una roba meravigliosa. Come ogni nostra crisi, noi cresciamo solo sulle crisi. Le crisi o ci distruggono o ci rendono più forti. I nostri capelli grigi, le nostre rughe, io ho 56 anni e la mia pelle è giovanissima, come la pelle di un bambino. La mia pelle ogni 3 anni viene rigenerata completamente. Le molecole che formano la mia pelle sono lì da 2 o 3 anni, non di più. Non è che si è consumata, ma dall'interno del mio corpo, dall'interno dei miei cromosomi, è arrivato l'ordine: non producete più elastina, la pelle deve avere le rughe. Questa signora deve essere vecchia, deve segnalare con le sue rughe che lei è l'anziana, che i maschi non sprechino sperma perché non può più riprodursi, ma soprattutto deve avviarsi all'ultimo grandissimo dono, che è la morte. Noi siamo terrorizzati dalla vecchiaia. Beh, signora, lei ha più o meno la mia stessa età. Io onestamente non me la sento di fare questo tipo di discorso. Sì, la mia pelle ha qualche ruga, ma ancora spererei che tante persone sprechino attenzione per questa pelle, sinceramente. Certamente, possiamo metterci su una cremina, perché noi, è anche giusto che noi cerchiamo di essere più carini, ma attenzione, la trappola della chirurgia estetica è una trappola terribile. Primo luogo, io sono chirurgo, è una chirurgia estremamente dolorosa con grandi effetti collaterali, ma è una chirurgia che ci fa perdere di vista il nostro scopo, che è essere sempre fieri di noi stessi. Se io unio forte, se a papà e mamma piacevo per quello che sono, se io ho imparato ad amarmi per quello che sono, io amerò anche le mie rughe e amerò anche la mia morte. Sentiamo un attimo. Signora, scusi un attimo, non vorrei interrompere, ma lei è meravigliosamente inafferrabile quando comincio a parlare, ma ogni tanto devo interromperla perché devo dare la parola ad Elisa, che sta aspettando al telefono. Elisa, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno alla dottoressa al telefono, che ha detto cose stupende. Non si chieda una signora, quanti anni ha lei, Elisa? Io ne ho 55. E lei ama le rughine che stanno apparendo sulla sua pelle? Non le amo nel senso che mi mettono di fronte alla realtà, ma le amo nel senso che sono la vera Elisa, sono la persona. Io sono nata 55 anni fa, non posso assolutamente nascondermi dietro a questa realtà, perché se io non amassi le mie rughe significherebbe che non amerei me stessa. Lei ha conosciuto la matrigna di Cenerentola? Sì, io ho avuto una matrigna splendida, meravigliosa, che è mia madre, e tuttora vivente. E ha 89 anni e, come diceva prima la signora al telefono, io ho vissuto l'abbandono, la pena più grande in assoluto che una persona possa provare, la consapevolezza, la sensazione ovviamente non verbale ma solo ed esclusivamente emotiva di non essere amata. Quindi lei era una delle sorelle cattive di Cenerentola, se ama la sua madre. Brutta, cattiva, Cenerentola che puliva, e naturalmente era una bambina obbedientissima, perché più io ero obbediente più la mia mamma mi avrebbe amato. Ovviamente errore gravissimo, perché se la madre non ti ama per quello che sei, non ti ama per l'averti partorito, ovviamente non ti amerà mai più perché tu pulisci la casa o rifai i letti o... questo è stato un dramma enorme che ha condizionato tutta la mia vita emotiva, perché io sono cresciuta mendicando per tantissimi anni amore a mia madre, una carezza, un sorriso che non ho mai avuto e non ho tutt'oggi, e lottando. E ancora se lo aspetta lei dalla mamma, sì, ultra ottantenne? Sì, purtroppo sì, me lo aspetto ancora. So perfettamente a livello razionale che mia madre non mi stringerà mai a sé, non mi dirà mai ti voglio bene, ma come tutte le persone desideriamo tutti essere amati, perché la mancanza di amore è l'assoluto. Quando tu non ti senti amato, quando tu sei un bambino non amato, sei consapevole di non essere amato, cioè non sei nulla, non vali nulla, quale dignità puoi avere se neppure colei che ti ha messo al mondo. Ecco, quello che dice Elisa è la fantastica traduzione del concetto stiamo cercando di esemplificare dall'inizio della trasmissione. Tutto ciò che è scritto nelle favole in realtà è scritto nella nostra carne. Immaginate che un bambino, il bambino che siamo stati noi o il bambino che avete accanto con vostro figlio, è una mappa indelebile di ogni passaggio del rapporto che ha con voi. Melog 2.0 800 24 0024, finalmente si è sciolto il pubblico, ha deciso di vuotare il sacco e raccontare le verosimiglianze della propria esperienza autobiografica con il racconto, con il filo sottile delle favole della nostra vita, come ad esempio Lisa. Buongiorno Lisa. Buongiorno. Lei è l'orfanella delle favole. Sì, più o meno, sì, io sono orfana di madre. E mio padre se n'è andato di casa, per cui io sono cresciuta più o meno tra orfanotrofi, affidi familiari e così via. Però vabbè, le favole della mia vita tutte tipo orco cattivo, ma direi che tutto sommato mi è andata bene, molto bene. È riuscita a sconfiggere gli orchi, come fanno appunto Hansel e Gretel, come anche Pollicino, che alla fine lo frega l'orco e l'orchessa, gli fa sgozzare le proprie figlie, quindi si salvano. Sì, esatto, più o meno è andata così. Sarà per una questione ereditaria, sarà perché nella mia vita, non so, posso ritrovare le matrigne, avrò trovato qualcos'altro, non ne ho idea. Comunque devo dire di esserne uscita piuttosto bene, alla grande direi. Quindi non soltanto orchi ma anche fate madrine nella sua esistenza? Sì, partendo da una fantastica dottoressa, una psicologa. psichiatra e passando poi a amici e amiche. È quella che ha trasformato la zucca in carrozza? Sì, sì, molto tardi devo dire comunque, dopo i 30 anni. Beh, è aumentata l'età delle persone in cui trovano il principe azzurro, quindi è abbastanza normale, visti i tempi. Grazie, Carlo, buongiorno. Buongiorno. Carlo, lei è un negazionista, dice che le favole non sono verità ma soltanto fantasia. Sì, è solo fantasia. Adesso noi stiamo forse generalizzando. Ok che la vita, ognuno ha la sua favola, no? Premessa. Nella sua vita ha la sua favola personale. Però dire che tutte le favole appartengono più o meno alla verità, questo mi sembra quasi, non dico assurdo, però mamma mia, no, dai, cerchiamo di essere più ottimisti, mamma mia, io vedo del pessimismo in tutto questo. Ha ragione lei, vogliamoci bene, guardi, le faccio ascoltare, proprio per dare ragione alla sua tesi, una meravigliosa e tenera favola che ispira ancora bambine e fanciulle, che è quella di Cenerentola dal piedino fasciato della scarpetta di cristallo. L'indomani sera Cenerentola, sempre con l'aiuto della madrina, tornò al ballo, con un altro abito, ricamato in oro, ancora più bello di quello della sera precedente. Il principe ballò sempre con lei e non volle lasciarla andare via a mezzanotte meno un quarto. Mezzanotte? Addio, principe! Aspettate! Non so ancora il vostro nome! Non importa! Addio! Non correte via. Silvana De Mari, esperta in favole, fantasy, autore del Drago come realtà, vuole dire al nostro ascoltatore cosa ci sta dietro la favola di Cenerentola, la sua scarpetta di cristallo, che favola che viene dalla lontana Cina. Certo. Capisco perfettamente cosa sta dicendo il signor Carlo, ha perfettamente ragione. In alcune, ci sono alcune realtà storiche. E purtroppo Cenerentola è la più atroce. Cenerentola nasce in Cina, nel X secolo d.C., periodo in cui si comincia a fasciare i piedi delle bambine. Cenerentola è colei che i piedi più piccoli delle rame. Quando la bimba aveva 3 anni, la mamma con un sasso le spaccava le ossa metatarsali e piegava il piedino in due, fasciandolo così che avesse la forma di un bocciolo di loto. Ma a tutti quanti gli ascoltatori e anche alle prime due signore, che è stato veramente un onore ascoltare i vostri 3 ascoltatori, vorrei spiegare qual è l'ultima caratteristica delle fiabe. Le fiabe ci mostrano dei bambini resilienti. Le 2 ascoltatrici sono delle resilienti. Che cos'è la resilienza? La resilienza è un termine che si usa in ingegneria e in meccanica. È un materiale che insieme è elastico, ma resiste sempre, non molla mai. La resilience, ce ne parla uno psichiatra francese che si è salvato per un pelo dal finire ad Auschwitz dopo aver visto ucciso i suoi genitori, è la capacità che ha il bambino di resistere e di non mollare. Il capacitare che ha il bambino di sopravvivere a situazioni atroci, perché qualsiasi trauma noi abbiamo avuto, qualsiasi cosa noi abbiamo vissuto, noi siamo esseri umani, noi abbiamo potenzialità infinite e straordinarie e noi possiamo sempre raggiungere l'equilibrio e la gioia. Tutti i protagonisti delle fiabe sono resilienti. Quindi, Silvana De Mari, i nostri genitori, chi ci racconta favole, ci dà una cartucciera a disposizione per salvarci tutte le volte che dovessimo, per circostanze della vita, incontrare orchi e streghe? Esatto, ci danno anche informazioni tecniche su come fare. Il nostro cervello è costituito da 2 emisferi. Un emisfero è quello razionale, quello che ci permette di sapere che 2 più 2 fa 4 e riconoscere l'ingegneria. L'emisfero emotivo non è spazzatura. Noi abbiamo un emisfero emotivo perché grazie alla capacità di raccontare e ascoltare storie, capacità che è basata su un preciso neurotrasmettitore, l'endorfine. Quando noi guardiamo un film fatto bene o ascoltiamo una fiaba raccontata bene, produciamo endorfine. Col piacere, madre natura ci spinge a capire che la narrazione, in particolare quella fantastica, serve ad aumentare la nostra sopravvivenza, perché ci trasmette informazioni raccolte in maniera sintetica. L'emisfero razionale lavora in maniera analitica, può processare un solo processo alla volta. L'emisfero irrazionale lavora in maniera sintetica. E qui noi proprio per sintesi ci fermiamo, Silvana De Mari, riprenderemo il discorso, visto che il nostro processo di trasformazione della carne in letteratura comincia soltanto oggi. Ricordo il suo libro, perché lo stanno chiedendo molti ascoltatori, Silvana De Mari, Il Drago come realtà, Salani Editore. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.